In questa seconda parte del CD sono esposti i fondamenti dell'educazione islamica. Il testamento spirituale dell'imam Ali ibn Abi Talib offre lo spunto per una rapida escursione nell'importantissimo tema dell'educazione islamica, alla quale i genitori musulmani sono tenuti obbligatoriamente, in obbedienza al precetto formulato in forma sintetica ma chiara, all'aia 6 della sura 66, nella quale Allah subhanahu wa ta'ala prescrive con un imperativo anche fonologicamente secco hu il dovere di educare gli appartenenti alla famiglia, mogli e figli, ai fini della propria e della loro salvezza dal fuoco dell'inferno, una comminatoria gravissima a fronte dell'inadempimento. Questa precisa norma costituisce uno dei fondamenti del dovere dei genitori musulmani di dare ai loro figli un'educazione che abbia per risultato la formazione in essi di una solida identità islamica. Va da sé che per essere all'altezza di impartire ai propri figli una educazione islamica è necessario che i genitori stessi, poiché negli insegnamenti di Allah subhanahu wa ta'ala e in quelli del profeta sallallahu alaihi wa sallama si basa l'educazione islamica, conoscano il sublime Corano e la nobile Sunna dell'Apostolo di Allah. È infatti nella pratica di quegli insegnamenti da parte dei genitori che si formano nei figli durante la loro prima infanzia le caratteristiche spirituali e morali necessarie per giungere alla realizzazione della salvifica linea di condotta islamica e a quella virtù che è la qualità essenziale per essere amati da Allah e dagli uomini. Nel binomio normativo sublime Corano, nobile Sunna, è contenuto anche il sistema organico di istruzioni per la attuazione della struttura portante della personalità islamica. Per questo il punto di partenza dell'educazione islamica che i genitori devono dare ai loro figli è l'insegnamento dei valori fondamentali su cui poggia quell'ottica islamica che permette a chi ne sia in possesso di rimanere moralmente e spiritualmente indenne da insegnamenti che provengono da fonti diverse. Nella lingua araba, in cui sono rimasti inalterati gli insegnamenti divini nel sublime Corano e quelli del profeta nelle tradizioni profetiche, il verbo che significa l'azione del dare nutrimento, cibo e bevanda per far crescere il corpo, ha anche il significato di educare, cioè per estensione di nutrire lo spirito, la ragione, i sentimenti al fine di costruire la personalità e perfezionarla. In relazione alla natura dell'uomo, creatura, avente struttura psicofisica unitaria, costituita da soma, corpo e psiche, anima, l'educazione che nasce dal sublime Corano e dalla nobile Sunna si articola in un percorso finalizzato a combinare armonicamente le esigenze della fisicità con quelle della spiritualità. La traduzione in pratica di questo progetto educativo, che tiene in considerazione tutti gli aspetti antropologici dell'uomo, il suo corpo, la sua ragione, i suoi istinti, i suoi sentimenti, permette la costruzione di una personalità islamica che garantisca all'individuo una vita buona nel mondo presente e sia un lasciapassare necessario per il meglio nell'aldilà, non senza il concorso benigno della misericordia divina. Sulla base dell'insegnamento del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, le fondamenta di un'efficace educazione islamica sono due: il buon esempio offerto al bambino nei primi anni della sua vita dai genitori e dalla famiglia, e la fiducia che a lui viene accordata. Le direttive pedagogiche date dal profeta, sallallahu alaihi wasallam, per avviare la formazione dell'identità islamica nei bambini sono essenzialmente tre. 1. Promuovere nel bambino il senso di responsabilità. 2. Realizzare condizioni ambientali che ne garantiscano sul piano psico-emotivo lo sviluppo armonico ed equilibrato della personalità. 3. La creazione di situazioni capaci di stimolarne le attitudini e i talenti che Allah gli ha dato per il benessere suo e della comunità. Ci deve essere un equilibrio tra le aspirazioni a soddisfare le esigenze materiali e quelle a soddisfare le esigenze della spiritualità. È infatti nell'armonia tra la soddisfazione delle esigenze materiali e di quelle spirituali che scaturisce un'eccellente personalità islamica, sicché per un'efficace azione educativa l'accento ha da essere posto in eguale misura sul momento materiale e sul momento spirituale, che sono i due momenti essenziali dell'esistenza umana sulla terra, non dimenticando mai che il destino dell'uomo non è esclusivamente terreno. La consapevolezza del significato escatologico della vita dell'uomo, che nasce dalla fede, è un fattore determinante nella direzione della linea di condotta in cui si esprime la personalità del musulmano, il quale, formato alla luce dell'insegnamento divino, è conscio che la vera vita dell'uomo è la vita futura che Allah ha promesso ai timorati. Alla formazione di questa consapevolezza e alla realizzazione in concreto delle condizioni grazie alle quali l'uomo possa essere veramente la creatura di Allah, degna del nome uomo, è finalizzata l'educazione islamica, che è stata trasmessa immutata nei suoi principi generali di generazione in generazione fino ai nostri giorni. I suoi principi non mutano e non possono mutare, poiché essi provengono da una fonte di natura divina, o direttamente dal sublime Corano, o indirettamente dall'insegnamento del profeta sallallahu alaihi wasallam nell'esercizio del suo magistero profetico. I principi generali sono immutabili per la ragione sopra esposta. Le finalità educative sono sempre le stesse, ma gli strumenti e le metodologie pedagogiche possono variare a seconda dei tempi e delle condizioni socioculturali della comunità umana in cui l'azione si sviluppa. L'obiettivo finale dell'educazione islamica è la costruzione della personalità umana, autenticamente umana, del soggetto, che è quella in cui si realizza la dignità umana della creatura uomo, che consiste nel non avere egli altro padrone che Allah, che è il suo creatore. Per la realizzazione di queste finalità, i temi fondamentali dell'educazione sono: 1. La formazione della consapevolezza di quale sia la reale condizione umana sulla terra, attraverso la conoscenza del rapporto dell'uomo con Allah subhanahu wa ta'ala. 2. La formazione della consapevolezza dell'appartenenza di tutti gli uomini a un'unica famiglia. 3. La coscienza della interdipendenza dell'uomo con il creato e con le altre creature non umane. L'educazione musulmana inizia promuovendo nel bambino il sentimento di amore verso i piccoli, gli umili, le persone anziane. Si sviluppa poi mettendo in evidenza nei modi adeguati e nei tempi opportuni la ragionevolezza del fare solo quelle cose che sono utili e benefiche per il corpo e per l'anima. Con il passare degli anni e il passaggio dall'infanzia alla fanciullezza dell'educando, gli insegnamenti si amplicano con l'intelligente rappresentazione delle devastanti conseguenze sul piano individuale, familiare e sociale della trasgressione alle regole di vita date da Allah subhanahu wa ta'ala e dal profeta sallallahu alaihi wa sallam, e con i benefici che derivano agli stessi livelli dall'osservanza delle norme di condotta dell'Islam. Con questo metodo si ottiene il risultato che da sé medesimo all'educando diventano ripugnanti il consumo delle bevande alcoliche o di droghe, il sopruso, lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo, la violazione dei diritti umani, l'ingiustizia in ogni suo aspetto. Non con l'imposizione immotivata, ma con la spiegazione ragionata dei benefici derivanti dal comportamento islamico e dai pregiudizi derivanti da ogni comportamento diverso, si ottiene il risultato educativo voluto. In questo modo si forma un soggetto umano che mette in rilievo al massimo il bene con il quale Allah lo ha distinto dalle bestie, il ben dell'intelletto.